L'insidia dei cacciatori. Le pantere anco domano di bacco i doni. I frodolenti cacciatori, frodolenta mescendo a lor bevanda, nulla schifando del divino bacco lo sdegno. Or le pantere son ferina razza, ma per avanti non feroci fiere, ma femmine erano serene, vinose, pampinifere, divote di trieteri di feste, ogni 3 anni ricorrenti, con teste inghirlandate di fiori, del lascivo svegliatore di carolette, bacco, alme nutrici. Anton Maria Salvini.